Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Il dibattito Pence-Harris, contenuti, pacatezza, un po' di non risposte, insomma direbbe qualcuno zitti e mosca. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. This debate was focused on issues very different from last week's chaotic presidential face-off. Mr. Vice President, I'm speaking. I'm speaking. Quiet. I'm not going to give you a question. You are fake news. I'm speaking. Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. La nuova sigla, giusto per l'occasione, curata da Valeria Bernardi, ci introduce immediatamente al tema di questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Vi ricordo la squadra: Antonio Taglia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni, in regia appunto Valeria Bernardi. Il tutto per raccontarvi l'esito del dibattito importantissimo che è avvenuto la notte scorsa in Utah, quella fra i due aspiranti alla carica di vicepresidente statunitense. 349-238-6666 per far sentire la vostra voce, anche un giudizio. Come è andato il dibattito di ieri? A mio modestissimo parere, finalmente si è parlato di programmi e di contenuti. Potete commentare, porre domande anche sui social: Facebook, Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. Incontro al fioretto, insomma, quello di ieri, non certo le sciabolate che invece i due candidati alla presidenza si erano scambiati il 29 settembre. Si è parlato di tutti i temi più importanti, ma forse questa volta davvero hanno vinto i programmi. E in questa puntata di Nessun Luogo Lontano proveremo a ricapitolare, fra le altre cose, in maniera molto sintetica, quali sono le proposte dei due presidenti e dei due schieramenti, quello democratico e repubblicano, sui principali temi e le principali sfide che gli Stati Uniti devono fronteggiare. 349-238-6666 per voi. Noi intanto sfogliamo i nostri dossier. Il primo ci porta quasi quotidianamente in Nagorno-Karabakh. Continuano infatti gli scontri nella regione caucasica. Entrambe le parti denunciano un numero crescente di vittime, ma come ripeto ogni giorno dobbiamo stare veramente attenti a le cifre che vengono fornite, perché non sono verificabili indipendentemente. Sarebbero 40 le vittime civili azere, 380 vittime militari totali delle forze supportate dall'Armenia. Nel frattempo vengono anche presi di mira luoghi di culto. Ci sono timori molto molto corposi che questo conflitto si trasformi in una guerra regionale. Le prese di posizione, da ultima quella di Teheran, molto veemente, di cui vi abbiamo dato conto nella puntata di ieri, ne sono un immediato segnale. Nel frattempo però pare che la voce della diplomazia voglia farsi sentire. Francia, Stati Uniti e Russia intensificheranno gli sforzi proprio per porre fine a questi combattimenti con un incontro che è previsto a Ginevra. I tre paesi, che sono co-presidenti del gruppo di Minsk dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che è quello che agisce da mediatore in Nagorno-Karabakh, si sono fatti sentire. In particolare vi riferisco alla presa di posizione del ministro degli esteri francese Jean-Yves Le Drian. Ha aggiunto che gli ufficiali diplomatici si incontreranno anche a Mosca, e questo avverrà lunedì prossimo, il tutto per convincere evidentemente le parti in conflitto a una de-escalation del conflitto stesso. Staremo a vedere, perché l'avanzata da parte delle truppe azere francamente non lascia, a mio modestissimo parere, tantissimo spazio adesso per la diplomazia. La Turchia intanto ha contestato il ruolo da mediatore del gruppo di Minsk, mentre Le Drian, la Francia, quindi il ministero degli esteri francese, risponde a tono e accusa Ankara, dicendo che Ankara è coinvolta militarmente negli scontri ed è responsabile della internazionalizzazione del conflitto. E poi in Kirghizistan, un paese di 6 milioni di abitanti, super montagnoso, con alcune ricchezze, una grossissima miniera d'oro per esempio, grossi giacimenti d'oro, ma una importanza fondamentale perché è cerniera tra due paesi altrettanto importanti, la Russia e la Cina. Questo paese sta scivolando in una crisi politica sempre più profonda, ve lo stiamo raccontando qui a Nessun Luogo Lontano, con quell'assalto anche alle sedi governative, e non si capisce bene in questo momento chi abbia le redini del potere in Kirghizistan. Situazione quindi molto caotica. Secondo alcune fonti giornalistiche, alle guardie di frontiera sarebbe stata consegnata una lista con una serie di persone da assolutamente non far uscire dal paese. Questo ci dà la misura anche della impenetrabilità del teatro kirghizo. Nonostante sia impenetrabile, chi ha, come dire, un accesso facilitato è certamente la Russia, tanto che ci sono dei colloqui, in particolare fra i servizi di intelligence di Mosca e i capi della sicurezza kirghisi. Si sono sentiti al telefono, mentre Peskov ha, come dire, dato una voce più ufficiale, più istituzionale a quello che è il delicato momento e anche le relazioni tra i due paesi. Peskov ha detto, che lo ricordo è il portavoce del Cremlino, ha sottolineato che ci sono obblighi di mutua assistenza tra la Russia e il Kirghizistan. Obblighi di mutua assistenza che fanno da sfondo a una relazione che è duratura e che ha anche una venatura militare, perché la Russia ha una base molto importante proprio nel paese caucasico, oltre che fare parte, il Kirghizistan, dell'Unione Economica Eurasiatica, che è guidata proprio da Mosca. E poi c'è una di quelle storie che a noi piacciono tanto, ma perdonerete forse la prosaicità di questa espressione, ci piacciono perché danno una dimensione immediatamente internazionale anche a quegli eventi che accadono qui a casa nostra. L'ex ambasciatore nordcoreano in Italia, Jo Song-jil, che è svanito nel nulla a fine 2018, ha trovato rifugio in Corea del Sud. Lo ha affermato un deputato dell'opposizione proprio sudcoreana. Perché è importante questa notizia? Intanto perché non se ne aveva più traccia da praticamente 2 anni. In secondo luogo perché sostanzialmente è il funzionario, il diplomatico di più alto rango che arriva a disertare e poi a riapparire in una zona sicura del mondo. Infatti la sparizione sostanzialmente di 2 anni è dovuta al fatto che il diplomatico cercava un paese terzo sicuro dove appunto rifugiarsi e poi eventualmente ricostruirsi una vita. All'inizio si era ipotizzato che la diserzione fosse legata alla pressione alla quale era sottoposto per procurarsi beni di lusso a favore di Pyongyang. In passato vari lavori giornalistici, tra cui quelli del Foglio, avevano proprio sottolineato come Roma fosse uno snodo cruciale per questo genere di operazioni. La diserzione di Jo Song-jil si aggiunge, qua parliamo di numeri che partono dalla fine degli anni 90, a 33.000 nordcoreani che sono fuggiti poi in Corea del Sud per evitare la repressione politica e la povertà del nord. Infine sapete che teniamo sempre un occhio e i riflettori per quanto possibile accesi sulla situazione dei 18 marittimi italiani imprigionati a Bengasi. La politica prova a metterci il suo, mentre lo sappiamo tutti, la Farnesina sta lavorando e tengono sempre i funzionari dell'intelligence italiana un profilo molto molto basso, il che ha in passato nel 99,9% dei casi agevolato anche le operazioni e il successo di queste. Naturalmente speriamo che si aggiunga un tassello di positività alla lunga fila di buone operazioni. Dicevo, la politica si muove perché gli eurodeputati di Forza Italia Tajani e Milazzo chiedono l'intervento dell'alto rappresentante dell'UE, Josep Borrell, sostanzialmente il ministro degli esteri dell'Unione Europea, proprio su questo caso. Chiedono sostanzialmente che l'Europa metta in atto delle azioni diplomatiche per risolvere la crisi. Vedremo se questa spinta che arriva dagli eurodeputati porterà anche a una presa di posizione ferma e dura da parte di Borrell. 349-238-6666, arrivano i primi messaggi, sono quasi tutti denunciano la fame di notizie rispetto a quello che è accaduto ieri notte. Certo, non tutti avevano la forza, l'energia, la voglia forse di mettere la sveglia alle 3 del mattino, ma c'è chi lo ha fatto e naturalmente ve ne daremo conto tra pochissimo. Innanzitutto proviamo a ricapitolare cos'è accaduto. 90 minuti ripartiti in 9 segmenti, tanti i temi toccati, barriere di plexiglass che dividevano i due contendenti. Eravamo nella Kingsbury Hall della Utah University Salt Lake City. Moderava Susan Page, USA Today, una giornalista della carta stampata alla quale da qualcuno è stato rimproverato che non avesse, come dire, le competenze, anche un po' la raffinatezza del giornalista televisivo. Però diciamocelo chiaro e ve lo anticipo fin da subito, magari lo avete già letto, l'avete sentito dal GR, non è stato un confronto particolarmente difficile da gestire. 90 minuti però molto molto densi, peraltro con un ospite inaspettato, li abbiamo riassunti in 90 secondi. Mm-hmm. from the very first day. Fin dal primo giorno, President Donald Trump has put the health of America first. Il presidente Donald Trump ha messo la salute degli americani al primo posto. Whatever the vice president is claiming the administration has done. Qualsiasi cosa il vicepresidente stia reclamando, clearly it hasn't worked. Evidentemente non ha funzionato. President Trump and I trust the American people. Il presidente Trump e io crediamo negli americani. To make choices in the best interest of their health. Crediamo che sappiano scegliere nell'interesse della loro salute. This administration stood on information that if you had as a parent. Questa amministrazione ha nascosto delle informazioni. Chi non aveva soldi da parte né un'assicurazione si è trovato in difficoltà. Tutto per l'inettitudine dell'amministrazione che non è riuscita nemmeno a parlare chiaramente agli americani. Joe Biden has been a cheerleader for communist China through over the last several decades. Joe Biden si è comportato come una cheerleader con la Cina comunista negli ultimi anni. The president's trade war with China. Pensiamo alla guerra commerciale del presidente con la Cina. You lost that trade war. Avete perso quella guerra. You lost it. Avete perso. It's not true. Non è vero. Questa è la nostra copertina, 90 minuti racchiusi in 90 secondi, raccontati da Valentina Ternullo e Valeria Bernardi. Allora, un primo bilancio di ieri notte, lo chiedo immediatamente al nostro ospite Giampiero Gramaglia, giornalista, consigliere scientifico di IAI, Istituto Affari Internazionali. Giampiero, buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Giampiero, dibattito fu finalmente, hanno parlato i contenuti o mi sbaglio? Sì, è stato un dibattito, i due candidati vicepresidenti, il vicepresidente in carica e l'aspirante vicepresidente hanno avuto modo e tempo di esporre le loro idee, non si sono parlati addosso, qualche volta non hanno risposto alla domanda, questo magari è il rimprovero che si può muovere alla moderatrice che non li ha incalzati quando eludevano il caso di Pence, domande sull'atteggiamento nei confronti dell'aborto nel suo stato, l'Indiana, o il caso della Harris, domande sulla riforma della Corte Suprema, ma per il resto idee esposte non particolarmente innovative, non ci sono state notizie, sì. La preoccupazione dei due non era di portare avanti o di mettere in avanti se stessi, ma di mettere in rilievo, in risalto il loro capocordata e di criticare, di attaccare il capocordata dell'altro. Sì. Le parole che state ascoltando arrivano da Giampiero Gramaglia, giornalista, consigliere scientifico di IAI, Istituto Affari Internazionali, che lui sì si è fatto la levataccia questa notte, ne ha scritto peraltro proprio sul sito di IAI un resoconto. Con anche delle osservazioni molto molto interessanti su quello che si sono detti e soprattutto su quello che non si sono detti. Giampiero Gramaglia, lei ha sottolineato, c'è anche una parte sulla quale sono stati piuttosto evasivi i due vicepresidenti, cioè che riguarda il fatto che, avendo due candidati alla presidenza non certo giovanissimi, non è così remota la possibilità che si possa arrivare a una sostituzione magari anche durante la presidenza degli stessi. Anche su questi hanno un attimo taciuto. Ti propongo, Giampiero, perché abbiamo fatto un sacco di ricerche in queste settimane, in questi mesi, sulle varie fonti, e non è facilissimo andare a comparare quelle che sono le proposte elettorali dei due schieramenti, democratici da una parte, repubblicani dall'altra. Allora abbiamo provato a riassumerli, così mettiamo un po' di carne al fuoco, come direbbe qualcuno, i programmi. Sanità. Biden, in linea con Obama, intende espandere l'Affordable Care Act, aumentando i crediti di imposta in modo che nessuna famiglia spenda più dell'8,5% del proprio reddito per l'assicurazione sanitaria. Il piano aiuterebbe anche a coprire i 4,9 milioni di americani che non hanno accesso al Medicaid. Dal canto suo, Trump ha definito la legge dell'era Obama un disastro, paragonando il sistema al socialismo. I repubblicani hanno tentato più volte di abrogare l'Affordable Care Act, mentre Trump ha emesso un ordine esecutivo che espande il sistema privato Medicare Advantage. Covid-19. Il piano di Biden per affrontare la pandemia include l'offerta di test gratuiti a tutti i cittadini, la creazione di 100.000 posti di lavoro per mettere in campo un tracciamento su base nazionale e l'aumento della produzione di dispositivi di protezione. Mascherina? Obbligatoria per tutti. Trump sostiene di aver gestito al meglio la pandemia e ha più volte ripetuto che con i democratici i morti sarebbero stati di più. Mascherina? Prima no, poi sì, ma riluttante a indossarla. Poi ancora sì, le mascherine sono importanti. Infine sì, ma non obbligatoria. Riforma della polizia. Nonostante l'endorsement al movimento Black Lives Matter da parte di Kamala Harris, Joe Biden è contrario a ridurre i finanziamenti alle forze dell'ordine, insistendo invece sulla formazione dei poliziotti. Il candidato Dem è favorevole però all'aumento degli investimenti in ambito sociale. Trump si è definito l'unico presidente in grado di garantire legge e ordine. Ciò nonostante, il presidente ha autorizzato modeste riforme in risposta alle proteste di piazza. Questo è il primo frammento dei programmi dei democratici e dei repubblicani sui temi principali, le grandi sfide che gli Stati Uniti sono chiamati ad affrontare da adesso e nei prossimi mesi e anni naturalmente. Con la voce e il commento di Giampiero Gramaglia, giornalista, consigliere scientifico di IAI, andiamo un po' più a fondo delle questioni che sono state dibattute, che sono dibattute in queste ore. Perché Giampiero, hai sentito anche dal nostro GR, confronto virtuale tra Biden e Trump, annunciano gli organizzatori, Trump però non vuole, ed è la notizia freschissima di circa un'ora fa, piuttosto organizza un comizio, non perde tempo nell'affrontare virtualmente il suo rivale. Ha paura del confronto virtuale? Quali armi non potrebbe mettere in campo in un confronto in streaming, per così dire? Beh, è uno sviluppo non del tutto inatteso, perché di fronte alla prospettiva di un dibattito virtuale, senz'altro Trump si sente defraudato di quella sua capacità di impedire all'avversario di dire la sua, di esprimere il suo pensiero, e soprattutto della sua superiorità, non tanto dialettica, ma di aggressività in un dibattito rispetto a Biden, e quindi pensa di perdere un vantaggio. Uno sta di fronte al computer, l'ha detto lui, che dibattito è, tanto più che ti tolgono il microfono mentre parla l'altro, e quindi tu non puoi interromperlo, al massimo puoi fare smorfie di dissenso, ma non, certo, lo devi lasciare parlare. Quindi lì c'è senz'altro un elemento per lui di disagio, di sentirsi di non poter utilizzare quelli che lui ritiene essere delle sue capacità, delle sue doti di dialettica o comunque di interlocuzione. Dall'altra parte c'è la sensazione che può dare Biden, che può dare Trump, di non voler affrontare il confronto, di essere uscito in qualche misura scottato dal primo confronto, sì, e quindi di rifuggirne, cosa che non penso che si possa permettere, tanto più che al di là delle dichiarazioni che lui fa, che lo stesso Pence ha fatto questa notte, prima di tutto noi vinceremo le elezioni, ha risposto a una domanda che creava una condizionalità su questo successo. Trump ha bisogno di rimontare. I sondaggi, da quegli amici a quelli meno a lui tendenzialmente favorevole, lo danno con un ritardo tra i 10 e i 14, addirittura 16 in uno punti, che anche se i voti su base nazionale negli Stati Uniti non contano, diventano difficili da recuperare in sede di grandi elettori, un disavanzo così netto. Non c'è dubbio, e sicuramente possono portare a una sorta di pressione psicologica sui candidati, un sollievo sull'altro candidato. E qualcuno ha detto che Kamala Harris ieri non ha affondato il colpo proprio forte di quella sensazione, no, di essere, secondo i sondaggi, avanti, ma l'abbiamo sempre ribadito, il 2016 ci ha insegnato che tutto può accadere. Un ascoltatore, Daniele da Viareggio, scusi, che paura, riferito a Donald Trump. Avete visto il primo dibattito? Semmai ha paura Biden di affrontare Trump in un confronto, così uno dei nostri ascoltatori. Molti di voi bollano quello di ieri come una vittoria assoluta di Kamala Harris, la candidata alla vicepresidenza per il fronte democratico. Con Giampiero Gramaglia vorrei toccare un altro punto che ieri era sostanzialmente la notizia arrivata, eravamo quasi in chiusura, è passata quasi in sordina in realtà il fatto che Trump abbia perso un altro appello contro il procuratore distrettuale di Manhattan sulla questione delle sue tasse. Cioè probabilmente la questione è il fatto che non ha presentato le dichiarazioni, avrebbe pagato solo $750, eccetera, eccetera, potrebbe andare alla Corte Suprema. È un tema questo, e lo riassumo in maniera assolutamente prosaica. Molti dicono, molti osservatori, guardate che non è un vero miliardario, ha fatto una fortuna, ma il gigantesco impero che ha creato in realtà ha delle gambe di argilla, ha debiti incredibili, è un grandissimo showman, tanto che The Apprentice gli ha fruttato forse gli introiti maggiori della sua carriera appunto di imprenditore. Se questa cosa, chiedo a Giampiero Gramaglia, se questa cosa potrebbe essere utilizzata come leva da parte dei democratici contro Trump. Il tema delle tasse è stato utilizzato in modo non molto efficace da Biden nel primo dibattito, è stato utilizzato in modo più efficace anche perché Pence non l'ha contratta tempestivamente dalla Harris ieri. Il sì. Tema dell'insuccesso imprenditoriale o dei dubbi sul successo imprenditoriale di Trump è più scivoloso, perché è vero che si può sostenere, ma come se per 10 anni hai dichiarato che perdevi, che facevi perdite, dove stanno i tuoi guadagni, dove è la tua capacità imprenditoriale? Però è anche vero che fa parte delle strategie gestionali di molte società di riportare gli attivi di in anni in avanti, in modo da ridurre gli attivi o finire in perdita l'anno proprio per motivi fiscali, quindi non è proprio un tema facilissimo da affrontare, e Trump del resto nel primo dibattito ha detto: io sono un imprenditore, se ci sono modi legali per non pagare le tasse li uso, quindi certo. E su questo tema molti americani lo seguono, come avviene in Italia su chi non affonda contro gli evasori fiscali. Quindi non vedo Vera arma che potrebbe rientrare nell'arsenale democratico. Giampiero Gramaglia, facciamo una piccola pausa. A proposito di economia, andiamo a sentire come stanno andando le borse in queste ore e poi ti faccio l'ultima domanda. Borse in diretta. Buon pomeriggio a tutti, si mantiene in rialzo Wall Street ad un'ora dall'apertura delle contrattazioni, anche se adesso un pochino al di sotto dei massimi toccati in avvio. Comunque più 0,7% per lo Standard & Poor's, più 0,4% per il Dow Jones, più 0,39% per il Nasdaq sopra gli 11.400 punti, una situazione positiva che continua ad incoraggiare anche l'Europa, partita benino questa mattina e poi via via andata rafforzandosi, con addirittura adesso Parigi e Francoforte che salgono di oltre un punto percentuale, Londra più 0,9, Milano quasi vicina al punto percentuale di progresso. Il piano di aiuti economici negli Stati Uniti è il tema del giorno, sullo sfondo naturalmente rimane ancora il dibattito elettorale apertissimo fra Trump e il suo sfidante Joe Biden. A Piazza Affari oggi i titoli più gettonati: Pirelli più 4,15, Mediobanca più 4,36, il gruppo come è noto sta registrando la progressiva salita nel capitale da parte di Leonardo Del Vecchio in patron di Luxottica, Finecobank più 2,5 punti, Unicredit più 3, più 2,5 punti anche per il Banco BPM, sale di 3,5 punti adesso Saipem sulla scia anche del recupero del prezzo del petrolio. In negativo Moncler e Ferrari perdono rispettivamente il 2% e l'1%, mentre l'euro rallenta un po' rispetto a ieri, 1,1740 il rapporto di cambio. In questo momento i mercati tornano con Focus Economia. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta buona giornata, ancora una volta ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. Il giorno dopo dell'attesissimo dibattito tra i due candidati alla vicepresidenza e contenuti furono finalmente, gioisce qualcuno, un dibattito in punta di fioretto, come forse tanti cittadini americani si aspettavano. Si è parlato di contenuti, alcuni temi però non sono stati evidentemente toccati, un po' di elusioni da parte dei due candidati su alcuni temi particolarmente scottanti. Uno in particolare ci arriva, il suggerimento arriva da un nostro ascoltatore che ci scrive dalla Florida e dice: la cosa più grave, la cosa più importante del dibattito è che Pence non ha risposto se sosterrebbe un trasferimento pacifico del potere in caso di perdite delle elezioni. Così Carlos scrive: impensabile che qui negli Stati Uniti nell'anno 2020 né presidente né vicepresidente si impegnano a sostenere un pacifico trasferimento di potere. Così mi allaccio all'ultima domanda che volevo fare a Giampiero Gramaglio, ricordo il giornalista, consigliere scientifico di IAI. Abbiamo in qualche modo accarezzato questa possibilità nei giorni scorsi, alcuni analisti e alcuni osservatori lo dicono, partendo dalle dichiarazioni dei diretti interessati. C'è il rischio, e l'allarme lo lanciano anche i dipartimenti della sicurezza statunitensi, c'è il rischio di un escalation di violenza nei giorni durante il voto e il post voto soprattutto, o è, come dire, un miraggio che noi giornalisti un po' avventati e avventurosamente poniamo agli ascoltatori? Il rischio collegato a fatti di cronaca, eventi di cronaca che possano rimettere in moto, o più che rimettere in moto perché in moto lo sono, ma possano riacutizzare le tensioni razziali e le proteste c'è sempre, ma che ci sia invece una strategia di far crescere la tensione, il livello della violenza in vista delle elezioni, questo non credo. Sarebbe del resto controproducente, cioè giocherebbe a favore dell'ala o delle pulsioni law and order una escalation di proteste, certo, nel senso della violation. Tant'è vero che la stessa Kamala Harris nel dibattito la prima cosa che ha detto è che la violenza non è mai giustificabile, anche se bisogna sempre cercare la giustizia e battersi per la giustizia. Dal punto di vista di Pence era difficile che contraddicesse una posizione più volte espressa da Trump, che non si impegna a riconoscere il risultato elettorale se ci saranno sospetti di brogli, nel momento in cui lui collega il voto per posta all'ipotesi di brogli, e il voto per posta è un voto largamente praticato in queste elezioni. È chiaro che Pence non poteva dire una cosa diversa, certo, da quella che ha detto il presidente. Però tutto questo è legato all'ipotesi, cioè l'idea che non ci sia un riconoscimento del risultato e che si vada avanti come avvenne nel 2000 con una conta e riconta dei voti o con una contestazione dei risultati fino magari alla Corte Suprema, è legato a un risultato di stretta misura, a un risultato in bilico. Se il risultato delle urne sarà netto, se la conta dei grandi delegati sarà netta, non credo che ci sarà margine per contestazioni sul singolo Stato o su qualche Stato. Così Giampiero Gramaglia, lontana le fosche nubi che qualche analista vedeva all'orizzonte. Naturalmente soltanto la notte del 3 novembre ci darà ragione e risposta di questa previsione. Intanto però grazie mille a Giampiero Gramaglia, giornalista, consigliere scientifico di IAI. Buona giornata, buon lavoro Giampiero, grazie, alla prossima. Grazie a te, buon lavoro, una buona giornata agli ascoltatori. Allora, un po' di messaggio al 349-238-6666. È vergognoso come portate Biden, siete tutti contro Trump, ma lui ha già vinto, cadrà il palcoscenico che avete creato con i sondaggi, Trump ha vinto, così scrive un ascoltatore, accusandoci evidentemente o facendoci rientrare in una gigantesca categoria che è quella dei giornalisti, ma anche dei sondaggisti, o meglio dei sondaggisti ingaggiati dai giornalisti, e comunque lieti di essere parte di questo palcoscenico internazionale. Russiagate Ucraina, non se ne è parlato? No, non se ne è parlato. Gli unici che non hanno voluto un passaggio di poteri democratici sono stati i propri democratici, con Hillary e il suo scandalo Russiagate, così Daniele da Viareggio, come al solito, temi particolarmente divisivi, così come sono divisivi i temi che vengono proposti da repubblicani e democratici. Di questo bisogna parlare, evidentemente. Quali sono le proposte per, come direbbe qualcuno, rendere di nuovo grande l'America? Ancora il nostro confronto tra i programmi. Cambiamento climatico. Joe Biden punta alla neutralità di emissioni entro il 2050, investendo 1.700 miliardi di dollari in 10 anni in energia rinnovabile e vuole riportare gli Stati Uniti in seno all'accordo di Parigi. Trump ha definito il cambiamento climatico una bufala inventata dai cinesi, mentre la sua amministrazione ha rilanciato l'industria del carbone e ampliato le trivellazioni di petrolio e gas. Economia e dazi. L'America First di Donald Trump pratica il protezionismo economico per favorire il mercato interno e il taglio degli oneri fiscali, e nel periodo pandemia ha ottenuto record di PIL e occupazione. Trump ha dalla parte sua importanti vittorie come i nuovi termini del NAFTA, ma la guerra dei dazi con la Cina ha generato tensioni internazionali. Biden invece ha minimizzato il ruolo della Cina come principale concorrente ed è favorevole all'entrata di Pechino nel WTO. Immigrazione. Joe Biden vuole facilitare il percorso verso la cittadinanza per i minori che hanno raggiunto gli Stati Uniti illegalmente, ma è contrario alla depenalizzazione dell'immigrazione clandestina. Vuole anche affrontare le cause che inducono i migranti a fuggire. La politica di Trump è molto chiara: tolleranza zero. Trump intende riformare le regole per l'immigrazione legale, favorendo i candidati meritevoli rispetto al principio del ricongiungimento familiare. I nemici esterni. La guerra di Trump con la Cina è ormai deflagrata, mentre le attenzioni democratiche sembrano rivolte più alla Russia. Rispetto all'Iran, Biden si è detto pronto a ripristinare l'accordo sul nucleare con Teheran, mentre Trump ha continuato ad applicare forti sanzioni contro il paese del Golfo. E così in qualche modo abbiamo concluso il nostro viaggio all'interno dei programmi. Un po' di messaggi che arrivano al 349-238-6666, alcuni abbastanza veementi. Chi sostiene Trump è da TSO, così Enrico da Firenze, insomma, che si espone anche a qualche critica. Onestamente mi sembra francamente eccessivo. Qualcun altro: io sono apolitico, non so nulla di politica americana, ma ascoltandovi si evince in modo palpabile e anche abbastanza inquietante che siete schierati contro Trump. Così Rino. Però io, gentile Rino, non mi capacito. Se lei si dichiara politico, dichiara di non sapere nulla di politica americana, come fa a vincere in maniera palpabile e inquietante che siamo schierati contro Trump? Eccola lì, Maria Bernardi. È diventato un tormentone quella mosca, ma... fatemi dare il buongiorno e ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano anche a Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight, analista politico, esperto di terrorismo. 2 giorni fa è uscito un suo testo, un suo libro, Immigrazione e terrorismo, i legami tra flussi migratori e terrorismo, di matrice jihadista. Claudio, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo. Buongiorno Giampaolo e buongiorno a tutti gli amici di Radio 24. Ti chiederei un commento al volissimo, se riesci, in 30 secondi, perché è notizia ripresa dal Jazeera proprio poche ore fa. Il presidente Trump più altri alti funzionari hanno confermato che in pochissimo tempo, probabilmente all'inizio dell'anno prossimo, le truppe americane scenderanno al numero di 2.500 in Afghanistan. Questo è un problema per la coalizione internazionale e per l'Afghanistan stesso? Sì, lo è di fatto. Torniamo a ripetere un concetto espresso più volte qui, proprio qui a Radio 24. L'Afghanistan è una guerra persa, l'amministrazione Trump ha preso atto della sconfitta o della mancata, del mancato successo delle precedenti amministrazioni e sta archiviando una guerra cercando di trarne il maggiore vantaggio. E questo vantaggio è il tempismo perfetto per un Trump con qualche difficoltà, che presenta questa sua strategia di uscita portando a casa i soldati americani poco prima delle elezioni che sì, dovrebbero o vorrebbero portarlo alla riconferma del suo ruolo. L'Afghanistan purtroppo è in realtà un paese in guerra e non cesserà con il disimpegno statunitense. La voce che state ascoltando è quella di Claudio Bertolotti. Peraltro, proprio ieri una giornalista di razza che ha consumato parecchio gli scarponi proprio in Afghanistan twittava, sto parlando di Shobani Inu, che è inviata, era inviata di ABC News, proprio il 7 di ottobre, morti 38.000 i civili afghani, 65.000 i membri delle forze di sicurezza afghane, 70.000 i talebani, 3.562 le truppe della coalizione. Sapete quanti trillion, quindi miliardi di dollari spesi? 2. Questo era il bilancio della collega Shoban Inu. Noi piccola pausa, andiamo sulle strade italiane e poi con Claudio Bertolotti apriamo un capitolo particolarmente sensibile, quello che va a analizzare il legame tra flussi migratori e terrorismo. Strade in diretta. Buon pomeriggio, bentrovati. Sulla A22 del Brennero il traffico è al momento bloccato per incidente tra Brennero e Vipiteno in direzione Modena. Incolonnamenti per lavori tra Alavio e Affi, in questo caso in entrambe le direzioni. Ci spostiamo sulla A9 Milano-Como-Chiasso, code per lavori tra Como Nord e Como Monte Limpino in direzione Milano e tra Como Centro e Como Monte Limpino in direzione della Svizzera. In Piemonte vi informiamo che da diverse ore sul raccordo Torino-Caselle, a causa di un incidente con mezzo pesante coinvolto, è chiuso lo svincolo di ingresso di Caselle in direzione del capoluogo piemontese. Rallentamenti per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce tra l'innesto con la 10 e Masone in entrambe le direzioni, mentre sull'autostrada del Sole nel tratto Firenze-Roma è segnalato un incidente con code tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Incolonnamenti per un mezzo in avaria sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte in direzione via Domiziana, infine code per lavori sulla A14 Adriatica tra Roseto degli Abruzzi e Teramo in direzione Bologna. Per questo appuntamento è tutto, ci risentiamo alle 17.45. Nessun luogo è lontano. Ancora una volta ben ritrovati, l'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano, ci sono un po' di messaggi di ascoltatori, peraltro chiedo scusa, lapsus, non 2 miliardi ma 2.000 miliardi, si parla di trilioni, la spesa degli Stati Uniti in questi 20 anni di guerra nel teatro afghano, teatro che Claudio Bertolotti conosce molto bene, ma io volevo parlare di un altro tema perché l'immigrazione anche nel dibattito politico italiano sta riprendendo ovviamente piede. Nel tuo libro analizzi il legame tra immigrazione e terrorismo, sostanzialmente, la faccio facile, si aumentano i flussi, aumenta il rischio terrorismo, Claudio Bertolotti. Io do una risposta facile che però devo spiegare. Sì. Poi. La risposta è sì, ma soltanto statisticamente. È una probabilità marginale che all'interno dei flussi migratori possano esserci dei terroristi. È invece più probabile che alcuni dei migranti possano sposare la causa del jihadismo una volta giunti in Europa, entrando in contatto con organizzazioni radicali, dunque in un secondo momento. Ma è inoltre doveroso evidenziare che l'essere immigrato non equivale assolutamente ad essere anche un terrorista. Certo. Nulla prova che gli immigrati di prima generazione in quanto tali siano particolarmente propensi ad aderire al terrorismo. È però vero che l'afflusso migratorio di soggetti provenienti da paesi a maggioranza musulmana e in quei paesi in cui il terrorismo è un fenomeno accertato influirebbe in maniera anche rilevante sul verificarsi di attacchi terroristici nel paese ricevente. Certo, ma certo. Ricordiamo che, e questo lo dicono i numeri, solo una minoranza marginale di migranti provenienti da tali stati può essere associata all'aumento del terrorismo nei paesi ospitanti. Parliamo di 1 su 1 milione. Questo per dare una dimensione statistica, è ricco di statistiche, di numeri, di cifre, però ricordo anche il passato e spero anche il futuro, quando il Covid ce lo permetterà, di viaggiatore e osservatore sul terreno di Claudio Bertolotti, che alcuni teatri di guerra li ha conosciuti, li ha vissuti proprio in prima persona. Ecco, c'è un aspetto che forse è quello della marginalità. Il migrante irregolare, marginalizzato, con poche opportunità, è più facilmente preda e vittima delle organizzazioni, non solo quelle jihadiste terroristiche, ma anche banalmente quelle, perdonate il termine banalmente, criminali, sto pensando al piccolo spaccio eccetera, quindi non è tanto la condizione del migrante, se ben intuisco Claudio quello che vuoi dire, ma la marginalità dell'essere migrante, la marginalizzazione del migrante che lo porta a essere una preda facile di quelle organizzazioni. Tu analizzi anche un altro aspetto che mi è molto caro, come tu ben sai avendolo studiato per anni, che è invece il favoloso business dei trafficanti di migranti. Lì ci sono sì delle comprovate attinenze tra alcuni trafficanti e organizzazioni jihadiste. Quello forse può essere un problema che deve preoccupare. Parliamo di milioni di dollari in nero col sistema Hawala, che è un sistema informale di scambio di denaro. Esatto, quello è il vero problema. Che quella del traffico di esseri umani è un'economia strutturata di primaria importanza all'interno di tutti quei territori che sono attraversati dai flussi migratori irregolari. La Libia, su cui noi ci concentriamo spesso, è solamente il penultimo dei 5-6 passaggi che ogni singolo migrante affronta prima di arrivare in Europa attraverso il Mediterraneo. E dobbiamo considerare che per ognuno di questi passaggi i migranti pagano dai 200 ai 2000 o anche di più sì. euro alle organizzazioni criminali o alle organizzazioni terroristiche che controllano quelle aree e le vie di comunicazione che le attraversano. E questo, moltiplicato per le centinaia di migliaia di migranti, ci rende l'idea del potenziale finanziario di queste organizzazioni. Allora, alla domanda come evitare questo tipo di finanziamento? Beh, certamente sì. agendo laddove non si sta agendo in questo momento, cioè sul piano economico, parallelamente a quello securitario, che non deve essere primario, ma deve essere complementare. È inutile costruire muri e inviare navi da guerra se poi la spinta ad emigrare rimane la stessa, ma quello che dovremmo fare è in realtà metterci in un rapporto di competizione, in realtà non potendole sconfiggere, vincendole le organizzazioni criminali, togliendo loro la fonte di guadagno, intercettando in primis i trasferimenti finanziari che spesso si appoggiano a stati compiacenti come gli Emirati tra i tanti, e poi più a fondo controllando proprio quello che tu citavi giustamente prima, cioè la fonte di finanziamento informale, la Hawala, che è molto utilizzato dai migranti e dalle organizzazioni criminali. Solo così, attivando soltanto in questa maniera, con questa strategia, e attivando poi parallelamente i ponti umanitari, un altro modo per entrare in competizione con la criminalità organizzata che gestisce il traffico di esseri umani, che possano garantire a chi ha effettivamente diritto a chiedere asilo di poter accedere ai territori, agli stati dell'Unione Europea, e successivamente ridefinendo il perimetro di sicurezza, così da ottenere da un lato una riduzione dei fondi e dall'altra parte una capacità operativa di gestione dei flussi migratori. Questa e altre interessanti analisi le trovate nel nuovo libro di Claudio Bertolotti, direttore di Start Insight. Il libro si chiama Immigrazione e terrorismo, i legami tra flussi migratori e terrorismo di matrice jihadista. Mancano 20 secondi a questo punto. Claudio Bertolotti, anche tu verrai sottoposto alla nuova liturgia che ci siamo inventati qui a Nessun Luogo Lontano, cioè essere accompagnati gentilmente alla porta da Donald Trump in persona, quando all'epoca era un personaggio televisivo come si vede. I'm speaking. You're fired. You're fired. Che occasione naturalmente per ringraziare te, Claudio Bertolotti, ma naturalmente tutti gli ascoltatori, la squadra di Nessun Luogo, darvi appuntamento a domani, ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Giampaolo Musumeci. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.